voi siete veramente simpatiche. Oh, grazie Laura, anche lei, a dirlo. No, ma lo sa perché? Perché anche quando parlate di malattie o di denaro che si sta perdendo, voi ci date speranza. Mangerò sempre più blu. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Nonostante tu sia la mia rondine andata via, se il mio volo a metà, se il mio passo. La rete ancora oggi è piena di messaggi di cordoglio. Da Facebook è partita un'altra proposta, un live di beneficenza per continuare idealmente quanto Mango stava facendo l'altra sera a Policoro. La serata e il concerto infatti erano stati organizzati per raccogliere fondi da utilizzare per costruire alcune scuole in Africa. E ad amplificare il dolore e la commozione per la perdita dell'artista è stata anche la notizia della scomparsa improvvisa del fratello mentre era alla veglia. Il suo cuore probabilmente non ha retto al dolore. Una grande emozione può essere quindi una minaccia per la salute del nostro cuore. Un potenziale fattore di rischio, insieme ad altri più noti e già indagati dalla scienza: ipertensione, colesterolo elevato, diabete, sovrappeso. Ne parliamo oggi insieme al professor Arrigo Cicero, che è tornato a trovarci, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgica all'Università di Bologna ed esperto di prevenzione di malattie cardiovascolari. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito ad essere qua a parlare con voi. E allora noi la invitiamo invece poi a continuare anche a seguirci per la pagina di Denari a partire dalle 11.45, momento dal quale aspettiamo anche i nostri ascoltatori con il secondo appuntamento di Investire Informati, la nostra nuova rubrica dedicata al risparmio e a tutte le domande e i dubbi dei nostri ascoltatori su questo tema. E potete iniziare già a chiamarci all'800 24 00 24. Per la puntata di oggi abbiamo fatto un piccolo nuovo esperimento. Abbiamo deciso di tenere aperto il giornale sulle pagine di finanza per tentare di spiegare in termini semplici le questioni complesse che stanno determinando i movimenti intensi che abbiamo visto in questi giorni in borsa e fra le obbligazioni. Si è riparlato di rischio Atene, teniamo sotto grande osservazione Mario Draghi, il quantitative easing, che cos'è tutto questo e come queste notizie movimentano anche i nostri soldini messi da parte. C'è una notizia, un concetto, un'intervista che avete letto che vi hanno lasciato con un grande punto interrogativo? Giratelo a noi, cercheremo di trasformarlo in una nuova piccola conoscenza da applicare anche al nostro piccolo bilancio. Bruciatore fritto e fritto, una lingua di fuoco nelle spalle, un giramento in capo, mi sentivo morire. Infarto. Infermiere, come un morso, tipo un morso di luce qui, una cosa qua, è infarto, sicuramente un infarto. Sì. Infarto. Solo la parola mette paura, è improvviso, violento, è l'evento cardiovascolare più grave, più temuto, quello che giustamente ci fa più paura. A volte la paura è così grande, Deborah, che non vogliamo parlarne né sentirne parlare, no? È così. Infatti. Allora io direi vinciamola e mettiamoci in gioco. L'invito arriva anche dai ricercatori del Karolinska, che hanno esaminato i dati clinici di poco meno di 21.000 uomini, un bel campione, tra i 45 e i 79 anni di età, un lavoro che ha coperto mediamente 11 anni di vita di questo campione. Allora, da centinaia e centinaia di dati e di confronti è venuta fuori la ricetta per un cuore sano e protetto a lungo. Ingredienti di questa ricetta li conosciamo tutti, ne abbiamo già parlato, però ripetita iuvant: ridurre il grasso addominale, fare esercizio fisico moderato tutti i giorni, seguire una dieta sana, dire addio alla sigaretta e mettere un freno al consumo di alcolici. Sono queste misure che, se fossero seguite con scrupolo e attenzione, potrebbero prevenire, state a sentire bene, ben 4 infarti su 5. Però Ecco, allora oggi vogliamo coinvolgere il professor Arrigo Cicero a parlare di salute del nostro cuore. Ripeteremo quali sono i passi da fare per tenerlo sotto controllo, monitorarlo e per farlo stare bene. Il cuore, lo sappiamo, ha dei nemici ma anche tanti amici. Professore, noi siamo ancora tutti scossi per la morte di Mango e di suo fratello, entrambi colpiti da un infarto, una storia triste che ha commosso tutti e che ha fatto immediatamente puntare nuovamente i riflettori sul cuore. In questi giorni, hai notato, ci sono tanti articoli che sono usciti su questo tema e anche sul fatto, professore, che si può morire di crepacuore. La perdita di una persona amata, un coniuge, un familiare, un fratello, un amico, mette a rischio la vita di chi sopravvive. È la sindrome del cuore spezzato, così è stata soprannominata dagli scienziati, da voi ricercatori. Le emozioni forti sono un attentato alla salute del nostro cuore? È corretto questo messaggio, professore? Allora, come le emozioni positive e in senso lato sono un fattore protettivo, in realtà fra i fattori che avete elencato prima, uno dei fattori protettivi è essere felici, che so che non è una cosa tanto semplice, ma comunque essere felice salva il cuore in qualche maniera. Così le emozioni particolarmente forti, soprattutto se negative, siano associati a un lutto, a una forte depressione acuta, qualcosa del genere, possono mettere a repentaglio la salute del cuore. Ovviamente con la premessa che ci vuole una predisposizione. Sì. Quindi questo è fondamentale, onde evitare che si passi questo messaggio. Passi un messaggio terrificante da questo punto di vista. Se la persona di per sé è sana e non ha una particolare predisposizione, ovviamente affronterà il lutto, la mancanza, la sofferenza in maniera più tollerabile, chi invece ovviamente ha una predisposizione a priori sarà più soggetto a rischiare da questo punto di vista. Professore, erano fratelli, no? Questo ci porta a parlare di familiarità. In Italia il 25% degli uomini e il 30% delle donne dichiara di avere familiarità per le diverse malattie cardiovascolari, un numero importante, no? Allora, se la familiarità è un potenziale fattore di rischio, quali sono le attenzioni, le precauzioni da mettere in atto? Insomma, cosa possiamo consigliare a chi in famiglia ha una persona che ha avuto un infarto? Allora, due punti nodali importanti. Il primo è il concetto di familiarità, per cercare di chiarire l'idea che chi ha il nonno che fa un primo evento infartuale o ischemico cerebrale a 80-85 anni non ha una familiarità preoccupante per eventi cardiovascolari. E la preoccupazione e quindi la maggiore attenzione al proprio quadro di rischio ce la deve avere chi ha avuto in famiglia un soggetto che magari ha avuto un infarto a 40 anni se è un uomo, a 50 anni se è una donna. Molto spesso viene misconosciuta la familiarità sul lato del materno o delle donne, perché le donne, essendo un pochino, non tantissimo, più protette rispetto agli uomini, magari durante l'età fertile, vero professor Cicero? Sviluppano la malattia magari un po' più avanti, per cui chi non è attento può dire vabbè, ma in fin dei conti non era così giovane, ma una donna che ha un infarto prima dei 60 anni è comunque giovane rispetto alla manifestazione della patologia. Chi ha una persona, un genitore in particolare, un parente di primo grado, che ha questa tipologia di problemi, deve essere più attento alla sua condizione. In particolare dovrà andare a cercare se c'è un qualche fattore identificabile di rischio che lo accomuna al parente. Certo, tipo ad esempio, professore? Tipo, non so, pressione alta come ce l'aveva la mamma, il colesterolo alto come ce l'aveva il papà. Anche di abitudini, perché se ho una cattiva abitudine di fumare, come aveva la cattiva abitudine il papà infartuato, questo è un altro fattore comune che ti può dire che tu forse non sarai uno di quei pochi fortunati che pur fumando non avrà un problema, ma sarà uno di quelli che probabilmente ce l'avrà. 800 24 00 24, parleremo dei fattori di rischio, li conosciamo, che sono, no, ipertensione, colesterolo, diabete, la triade, a cui sicuramente aggiungiamo il sovrappeso e anche lo stress, sicuramente, professor Cicero, che pesa di più sulla salute del cuore di noi donne. E parleremo anche di acido urico, un fattore di rischio cardiovascolare su cui la ricerca ha prodotto dei risultati molto interessanti. Vogliamo sottolinearlo e presentarlo ai nostri ascoltatori, che stanno già chiamando numerosi. Esatto. E tra l'altro, proprio sul tema che abbiamo appena affrontato, c'è una richiesta di chiarimento da parte di Alessandro da Napoli, nostro primo ascoltatore a mettersi in linea oggi. Benvenuto. Eccolo, è caduto. Allora, voleva avere appunto dei chiarimenti sull'ereditarietà, vediamo se riusciamo a ripescarlo. Allora, intanto rispondiamo ad alcuni messaggi che stanno arrivando, sì, al 349-238-6666, perché vogliamo dare voce anche a chi ci scrive, naturalmente invitandolo a partecipare. Ci scrive Dario da Vicenza: se l'aspirina a bassi dosaggi per lunghi periodi può essere un aiuto come prevenzione. Professore. Sì, vi è un'ampia letteratura scientifica ormai più che decennale, che dimostra chiaramente che soprattutto nei soggetti che abbiano un rischio particolarmente elevato di sviluppare appunto infarti per la presenza di altri fattori di rischio, tutti quelli che abbiamo citato, che vanno dall'ipertensione alle dislipidemie e perché no anche la familiarità stessa per eventi precoci, sicuramente se non ci sono controindicazioni di sorta, in particolare fastidi a livello gastrointestinale, è una buona protezione per le patologie cardiovascolari, in particolare per quelle coronariche. Allora, abbiamo ripescato Alessandro da Napoli, che prima c'era caduto. Buongiorno Alessandro. Sì, salve, grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Io ho un po' sentito in parte la discussione del dottore, forse è proprio il mio caso, perché io ho avuto il mio nonno che è finito d'infarto, il mio papà altrettanto, mia madre quest'anno anche lei, poverina, però mio padre era fumatore. Ecco, lei fuma Alessandro? Non ho capito. Lei fuma Alessandro? Io non fumo, però sono asmatico, diciamo, soffro un po' il periodo di primavera. Sì, allergico e quindi all'asma. Allergico solamente, non fumo, cioè l'unica cosa che bevo è un po' il caffè, queste cose qui. Beh, ma il caffè fa bene, professor Cicero, vero? Sì, confermo. Ecco. Dipende quanto, però penso. Allora, ma quanti ne beve, Alessandro? 10-12 al giorno, l'ultimo a mezzanotte. Allora lì passa il professor Cicero. Abbiamo un tantino superato il limite, forse. Professore. Sì. Allora, è ovvio che questo è un racconto di una familiarità indubbiamente importante. A maggior ragione la posso rassicurare sul fatto che l'asma di per sé non è un fattore di rischio aggravante il rischio cardiovascolare, per cui almeno su quello stiamo tranquilli. È particolarmente importante una familiarità di questo tipo verificare e mantenere più possibile in valori ottimali quelli che sono, certo, gli altri fattori, cioè ovvero soprattutto l'ipertensione arteriosa e il colesterolo e ovviamente anche il peso corporeo. Se tutto ciò viene mantenuto si attenua moltissimo la componente legata alla familiarità ricordiamocelo sempre, avere familiari non significa essere condannati. Anzi, tra l'altro, professor Cicero, sì, voglio dare questa buona notizia che ho sempre letto in questo studio del Karolinska, che dice che chi mostra segni di una prognosi sfavorevole può beneficiare comunque sempre della prevenzione. Per ogni comportamento virtuoso il rischio si abbassa e i ricercatori, lavorando sui dati del campione, sono riusciti, pensate, esattamente a capire di quanto. E allora, ridurre i grassi nella dieta per far posto a frutta e verdura, cereali integrali, a pesce, a noci, a legumi e contemporaneamente moderare un po' il consumo di alcol, può ridurre il rischio di infarto del 35%. Sono dati straordinari, professor Cicero. Sì, sono dati rispetto a queste indicazioni un po' ingigantite rispetto al fatto che questi sono dati relativi a pazienti svedesi, quindi con anche un'alimentazione un po' diversa dalla nostra. Probabilmente in Italia sarebbe molto più importante che la gente si muovesse di più, perché noi siamo uno dei popoli più sedentari d'Europa. Questo è vero. Professor Cicero, l'ho anticipato in apertura, vogliamo parlare anche di fattori di rischio, possiamo dire non tradizionali, insomma su quelli di cui magari le persone non sono informate, ma di cui, su cui lavorano i ricercatori, in particolare della creatinina e dell'acido urico, che possono essere dei buoni indicatori della salute del nostro cuore. Solitamente l'acido urico ci fa venire subito in mente la gotta. Che, perché e come possiamo invece, vero Deborah? Sì, acido infatti, urico ti viene in mente l'equivalenza, esatto, l'equazione quasi automatica. Che era la gotta un tempo la malattia delle persone che ricche, no? Perché mangiavano, potevano mangiare carne tutti i giorni. Perché? Che legame c'è tra l'acido urico e il nostro cuore? Perché è così importante? Allora, l'acido urico in realtà ad altissime dosaggi, ad altissimi livelli come quelli che si osservano nella gotta, ha la tendenza a precipitare nelle articolazioni, a dare quelle manifestazioni che sono più note un po' tutti quanti appunto sotto il nome di gotta, quindi con quei rigonfiamenti dolorosi delle articolazioni soprattutto periferiche, e quindi questa è una cosa. In realtà la maggior parte delle persone non arriva a quei livelli e tende ad avere livelli intermedi. Allora, la peculiarità dell'acido urico è che è in qualche maniera un'espressione ancora una volta del nostro diciamo stress, non nel senso psicologico del termine, ma nel senso fisico del termine, per cui tende a precorrere, se vogliamo, l'invecchiamento dei vasi. Sì. O ad accelerare l'invecchiamento dei vasi e a predisporre allo sviluppo per esempio di ipertensione arteriosa. È come se fosse un mega radicale libero? È come se fosse il marcatore della risposta ai radicali liberi. Ecco. Per cui vuol dire che se uno ne ha moderatamente tanto è perché è moderatamente molto esposto. Siamo molto ossidati, si può dire così? Bravissima. Vai. E quindi questa è l'idea base. Ne e che ci viene la ruggine, quindi interviene fondamentalmente prima che compaiano alcuni fattori di rischio, come in particolare l'ipertensione, e poi dopo, quando c'è già un'ipertensione, c'è già un'ipercolesterolemia, c'è già una situazione di rischio che si sta creando, sì, facendo un po' da accelerante, se vogliamo dire. Quindi in questo modo, noi insieme al colesterolo, alla pressione alta, al sovrappeso, al diabete, allo stress, dobbiamo aggiungere l'acido urico che di solito le persone non testano, non misurano, no, vero, negli esami, eppure sarebbe allora, in realtà guardate è molto frequentemente misurato, ma no, nessuno lo guarda, povero, ma nessuno lo guarda, esatto, la cosa buffa fra virgolette è questa. Allora, vogliamo dire quali sono i valori corretti, quelli che sono, allora, che ci mettono al sicuro? Perché il dato che l'acido urico sia complice del 40% degli infarti fa sobbalzare sulla sedia. Sì, anche qui ci terrei a specificare, diventa un fattore aggiuntivo importante nella determinismo dell'infarto. Se accompagnato da altri fattori di rischio. Sì, esatto, il concetto è questo, che è quasi impossibile che un soggetto che non ha esposizione al fumo, non è iperteso, non ha colesterolo alto, solo per colpa di un acido urico leggermente innalzato possa avere un infarto. Poi però, naturalmente lei ci spiegherà come tenerlo sotto controllo, ma esatto, i valori, che così magari se uno ha degli esami del sangue fatti di recente sotto va a dare una sbirciata. Ecco. Lei allora, ride, che ma si ride, fa così, dottor Cicero, guarda. No, mi piace la domanda perché in realtà non c'è ancora una chiarezza rispetto a qual è il valore soglia ottimale. Quello che è sicuro è che se uno ce l'ha perfettamente normale, ecco, verso il basso, tradotto in altri termini, sotto 5-6, in particolare più basso nelle donne, è sicuramente protetto dal fattore di rischio acidurico. Se si va sopra 6, che peraltro negli esami risulta ancora nella normalità, perché noi abbiamo dei tagli di normalità che vengono classificati per il rischio di gotta ancora, sì. Non è ancora stata cambiata questa cosa nei rischi. Quindi noi dobbiamo prenderci un bel 5 di acido urico per avere il cuore sano. Possibilmente le donne, anche se fossero sul 4 e gli uomini sotto il 5, ancora meglio. Di donne tra l'altro parleremo, perché il cuore delle donne è molto delicato, lo sappiamo, vero professore? Poi tra l'altro noi abbiamo, io lo racconto per esperienza diretta, sai che io ho avuto una sindrome coronarica acuta in tempi non sospetti, era il 2005, sì. Possiamo dire un piccolo infarto, no, professor Cicero? In qualche maniera l'equivalente. In qualche modo sì. Non è che te l'ha fatto arrabbiare il dottor Cicero, già lo conoscevo. Non lo conoscevo ancora, anche lui, però con dei sintomi, dei segnali che sono assolutamente diversi da quelli che vengono descritti invece nella popolazione maschile. Quindi non dolore al braccio, non... avevo dei segni che poi vi racconterò, insomma, per dire alle ascoltatrici, stiamo attenti, il nostro cuore ci parla in modo diverso, bisogna saperlo conoscere, e ci sono dei fattori di rischio, ne abbiamo parlato, ad esempio l'acido urico, noi donne dobbiamo avere un livello inferiore, quindi impariamo a proteggerlo. Noi abbiamo un cuore grande, lo dedichiamo sempre agli altri, badiamo anche al nostro. E adesso ai mercati, che ci solleveranno il cuore. Ma guarda che questi giorni invece ce l'hanno fatto fibrillare non poco, sentiamo oggi come va. Cuore e denari. Bel sirtaki per annunciare il tema che approfondiremo più tardi. La Grecia va alle elezioni presidenziali anticipate il 17 dicembre. La borsa crolla portando con sé tutte le altre. Perché gli Stati Uniti inizieranno ad aumentare i tassi di interesse? Una scelta precisa di politica monetaria ed economica. E allora perché lo fanno e cosa vuol dire per i nostri investimenti? Come si investe in uno scenario di tassi europei bassissimi e tassi americani che a breve riprenderanno a salire? Domande che ci possono venire in mente quando apriamo, soprattutto in questi giorni, un giornale sulle pagine di economia, se le apriamo. La nostra rubrica Investire Informati vuole invitare tutti a farlo e con sempre maggiore consapevolezza, e anche a trovare un risvolto concreto sulle nostre scelte di risparmio e di investimento in famiglia. 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi, fra circa 15 minuti riapriamo la nostra scuola di risparmio. Il cuore, alle dimensioni di un pugno chiuso, è una forma simile ad una pera con la punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore. Segue il ritmo delle emozioni. Normalmente in una persona adulta il cuore si contrae 60-70 volte al minuto. In una persona innamorata molto di più. A volte si arriva a 100 senza rendersene conto. Non sei più tu che comandi quando sei innamorato. Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi. È lui. È lui che comanda, allora teniamolo da conto. Certo. E lo facciamo oggi insieme al professor Arrigo Cicero, che ci darà delle indicazioni preziose. Abbiamo parlato di fattori di rischio, abbiamo parlato di acido urico, che è sotto così l'attenzione dei ricercatori. Come si fa, professore, a tenerlo basso? C'entra la dieta? Serve il limone, come ci sta scrivendo un nostro ascoltatore? No, quella è una parziale leggenda metropolitana, salvo il fatto che indubbiamente chi fa una dieta ricca di antiossidanti sicuramente ne può avere un vantaggio, però l'acido urico è determinato fondamentalmente da tre fattori. Un fattore alimentare sicuramente legato alla iperassunzione di carni e di frutti di mare, che sono particolarmente ricchi di precursori dell'acido urico, però in realtà diciamo. Quindi che vegetariani dovrebbero avere un acido urico, come ci suggerisce un nostro amico vegano, bassissimo, zero. Allora, tendenzialmente sì, salvo che non abbiano una predisposizione genetica a iperprodurlo, e allora anche con la dieta migliore del mondo continueranno ad averne sempre più di quanto necessario. Ecco, vedi che non ce la dà mai tutta vinta. L'eccezione deve sempre trovarla. Quindi, esatto. E poi quale altra indicazione possiamo dare? No, la, l'indicazione, diciamo che in senso generale è quello di mantenere quelle norme di sano stile di vita che noi proponiamo sia per la prevenzione delle malattie cardiovascolari in senso lato che per la prevenzione delle patologie anche di tipo oncologico, per cui in realtà non bisogna fare necessariamente uno sforzo ad hoc, anche perché nei casi in cui il valore fosse veramente elevato, per forza di cose, come si tratta di ipertensione, come si tratta di ipercolesterolemia, così bisogna utilizzare dei farmaci specifici, certo, per ridurre l'acidura. Allora, 800 24 00 24, sentiamo i nostri ascoltatori e poi torniamo, sì, a parlare del cuore delle donne rapidamente. Brava, per dare i segnali ci hai lanciato questo messaggio e noi vogliamo saperne qualcosa di più. Però sentiamo Leonardo da Napoli, se è un altro consumatore di caffè incredibile come l'ascoltatore che l'ha preceduto. Anche lei ne prende 12 al giorno, l'ultima mezzanotte. No, Leonardo, assolutamente no, buongiorno. Buongiorno, buono e buono quello di Napoli. Mi seguo. Grazie. Volevo fare una domanda. Come la spirinetta, capisci? Perché siamo. Vero? Vero, Leonardo? Sì, ecco. Sì. Volevo fare una domanda. Sì. Io ho 63 anni e da 10 anni ho uno stile alimentare, direi perfetto, per come lo descrivete voi. Ciononostante non mi faccio mancare niente. Napoli è dura, tra l'altro, essere integerrimi. Esatto, e quindi colesterolo alto, sempre sotto controllo con le statine, la pressione da 4-5 anni alta, ma sempre sotto controllo con Ramipril, un medicinale specifico, sì, non sono sovrappeso, mangio sempre pesce, radissimamente carne, quindi faccio una dieta cosiddetta mediterranea, cioè nonostante appunto non mi faccio cambiare niente, prendo la spirinetta ogni giorno perché il medico me l'ha consigliata. Certo. Volevo capire una cosa, uno come mai appunto nonostante si comporti benissimo accade questa cosa? Bravo, bravo Leonardo, un'ottima domanda. Adesso voglio vedere che cosa ci risponde il professor Cicero. Nonostante si comporti benissimo, deve, allora mangia bene, sì, però deve prendere la pastiglietta per il colesterolo, quella okay, per la pressione, la spirinetta tutti i giorni, però lui è integerrimo. Sì, allora, in realtà torniamo al punto iniziale, è un concetto di familiarità dove anche la familiarità non esista in senso di che ci siano stati dei problemi materiali come infarti o ictus o cose di questo tipo, perché ricordiamoci sempre un aforisma molto banale che è quello che dice ci vuol sempre il primo in una famiglia. Cioè, vabbè, nel senso, ma qua viene un po' da fare uno scongiurino, sì, esatto, professor, no, non nel senso di avere un evento, toccar ferro, ma anche semplicemente di essere. Beh, io ho già dato. Okay. E quindi al nostro amico di Napoli che cosa possiamo dire? Di continuare a tenere sotto controllo questi fattori di rischio, perché il controllo dei fattori di rischio, ahimè, anche attraverso una terapia, abbinati ad uno stile di vita adeguato, corretto, perfetto come descrive lui, insomma, lo mettono al riparo, Sì, e poi c'è anche da ricordarsi che non tutto quello che noi pensiamo essere fatto come Dio comanda è fatto magari esattamente come Dio comanda, perché questo è un altro quindi problema. Mette un po', vedi, non ci crede del tutto, il professor Cicero. Nella buona fede di sicuro, nel fatto che tutto ciò che venga interpretato come buono sia buono è sempre da valutare. Va bene, perché lui comunque ha precisato in ogni caso non mi faccio mancare niente, chissà lì che cosa si nasconde dietro quella parte frase. Fa bene, dai, altro che, no, noi ma tu immagina bene, fare la dieta a Napoli, cioè è proprio scientificamente impossibile e eticamente inaccettabile. Dove andiamo? No, voglio sapere della sindrome allora, delle donne. Allora, vi racconto. Professore, mi aiuti lei. Noi donne abbiamo un segnale, però non lo dico solo io, ci sono degli studi che dimostrano che l'infarto, i sintomi dell'infarto dalle donne vengono spesso sottovalutati perché non si presentano nel modo classico, si camuffano con dei segnali un pochino difficili da interpretare. Ad esempio io avvertivo una specie di bruciore più che dolore che si irradiava dallo sterno, ma dato che avevo mangiato una liquirizia ed ero poi in bici, primo giorno di vacanza, ho detto sarà un po' la liquirizia, sai quando ti rimane un po', sì, come così, poi come quelle balsamiche, evidentemente mi mancava un po' il fiato, un po' sai quando ti senti il fiato e corto, poi diciamo anche l'altro sintomo che Carlo ha detto, ma c'era anche il tempo, sai al mare quando c'è quel tempo un po' nuvoloso, esatto, che ti senti il cielo sulla testa. Poi evidentemente mio marito mi ha guardato, dovevo essere verdognola, e mi ha detto vieni che ti accompagno, e mi hanno blindato per una settimana. Comunque coronari a posto, enzimi mossi, e una specie di simile infarto. Professore, questa storia per raccontare alle donne che ci stanno seguendo che... Allora, che indubbiamente da un lato vi è una quota di sensibilità maggiore del sesso femminile anche rispetto a quella patologia che abbiamo definito in maniera più allegorica come patologia da crepacuore, sì. Se vogliamo, e questo è un dato di fatto. D'altra parte è vero che le donne manifestano spesso la patologia, soprattutto infartuale, con una sintomatologia che una volta veniva definita atipica, mentre oggi si definisce più caratteristica del sesso femminile, ovvero la probabilità che si abbia quel fenomeno classico che tutti conoscono del dolore trafittivo a livello della zona cardiaca che ti fa piegare in due, così, e che un po' da manuale, ma poi nella realtà è molto da manuale, peraltro da manuale vecchio, perché anche negli uomini adesso incomincia a manifestarsi meno frequentemente così. Vedi che ci copiate sempre, da quando esatto. Vedete che avete capito, è una roba va però bene. Diciamo che da tempi storici nelle donne le manifestazioni sono sempre state tipiche, tant'è vero che anche spesso non facile interpretare anche test particolarmente diffusi come il famoso elettrocardiogramma sotto sforzo, che nell'uomo è particolarmente indicativo di una risposta rischio sì, rischio no, mentre spesso nella donna dà dei risultati un po' sfumati, tant'è vero che qualche collega un po' sciovinista sostiene che le donne mentono sempre anche quando fanno le elettrocardiogramma. Allora, questo suo collega ce lo porti qua. Che ce lo facciamo due chiacchiere noi Infatti. E poi vediamo se ha ancora il coraggio di ribadirlo. Comunque, allora Enrico da Brescia non abbiamo più. No, ce lo facciamo volante, Enrico, volante Enrico. Di corsa, perché stiamo andando a scuola noi. Sì. Allora un piccolo fatto curioso che ho scoperto da un mese grazie allo smartphone e ad un'applicazione che praticamente mi conta quanto mi muovo io in un giorno. Bravo, sì. Quanto si muove? Ecco, l'applicazione dice che mediamente mi muovo 5,2 km al giorno, sì. Con picchi il sabato di 9 km per le faccende a spesa domestica. Bravo, i lavori, eccetera. Allora, lavori. Però io faccio una vita abbastanza sedentaria. Mi ha sorpreso che una media di 5 Bravo. Km Tante al giorno. Volte, quando sì, noi che star seduti tutti 5 i giorni. 5 km sono dei buoni passi, professor Cicero. Qual è il numero minimo che tu mi dici? 5 e 10 mili. Sì. Sì, sarebbe ottimale, però ricordiamoci sempre che una buona parte dei contapassi, ancora di più dei contapassi associati a device elettronici come gli smartphone, tendono a fortemente a sovrastimare il numero dei passi, perché vengono sensibilizzati dalle oscillazioni. Tradotto in altri termini, se a seguito di una storta o una caviglia, che uno si muoverebbe ancora meno, uno zoppica, sì. La zoppicatura fa sì che il sistema il contapassi conti di più, quindi vi abbiamo esatto. dato anche un modo per ingannare il contapassi, per esatto. barare. Chiudo, chiudo io con un aneddoto. Due miei amici, Marco e Valeria, che saluto, sono partiti con due smartphone diversi, sì. Entrambi sì. avevano un'applicazione appunto che contava i passi. Al termine della loro passeggiata, secondo uno aveva fatto 10 km, l'altro ne aveva fatti 4, per cui qua bisogna anche vedere che Beh, tipo di applicazione comunque scarichiamo. Comunque non si possono contare, no. Andiamo a chilometri allora. Grazie al professor Grazie. Cicero, buona giornata. Noi adesso, a proposito di passi, corriamo ad a investire scuola. Informati. Facciamo la cartella. Cuore e denari. Allora, ricordate, già la settimana scorsa avete sentito una nuova sigletta che annunciava la partenza di questa nostra nuova iniziativa di Radio 24, ma nello specifico di Cuore e Denari. Siamo partiti, anzi partite, con Investire Informati, un percorso che si snoderà lungo ogni giovedì, con il quale cercheremo di intrattenere i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici su temi che sono a loro molto cari, il risparmio e gli strumenti per risparmiare. La riascoltiamo, Nicoletta, nostra sigla? Mi piace molto, andiamo. Vai. Investire informati. E allora ogni settimana una società, un'organizzazione si alternano al nostro microfono per aiutarci a capire le dinamiche che sono spesso complesse, ma qualche volta magari non ci impegniamo abbastanza per capirle, degli strumenti di investimento. Quindi ritorneremo su tutto: fondi di investimento, BOT, BTP, PAC, obbligazioni, conti di deposito. L'inizio di questa rubrica, lo ricorderete, settimana scorsa è stato dedicato alla ricorrenza del 30° compleanno di Assogestioni, l'organizzazione che raccoglie e rappresenta le società italiane di gestione del risparmio, quindi l'industria dei fondi di investimento. Oggi facciamo una cosa nuova, ma vi presento subito il nostro ospite. Benvenuto a Simone Binismaghi, vice direttore generale e responsabile direzione sviluppo e marketing di Arca SGR. Buongiorno. Lasciato qualcosa per strada? Detto tutto correttamente? Tutto perfetto. Già promossa. Promossa. Adesso un bel 10 ce lo portiamo a casa. Molto, terminiamo la puntata perché non si sa mai. Le modalità per interagire con noi è sempre la stessa, 800 24 00 24, perché vi diamo il numero verde, perché noi vogliamo che siate voi protagonisti del nostro Investire Informati, come è successo peraltro la settimana scorsa. Verso la metà della seconda parte di Cuore e Denari vi faremo una domanda per testare se la nostra lezione ha lasciato un segno, e naturalmente i primi che risponderanno andrà un libro di Cuore Denari. Apriamo la nostra biblioteca come sempre. Allora, e a proposito di aperture, per la puntata di oggi abbiamo deciso di tenere aperto il giornale sulle pagine di finanza, chiaramente qua gioco facile con il Sole 24 Ore, per spiegare in termini semplici le questioni un po' complesse che stanno determinando i movimenti anche abbastanza intensi che abbiamo visto in questi giorni in borsa e fra le obbligazioni. Abbiamo avuto un nuovo riscontro forte di come la politica abbia il potere di dare la linea ai mercati. Anche per questa ragione dobbiamo impegnarci a monitorare con un po' di interesse le notizie finanziarie, perché poi un riflesso che non è sempre immediato, ma in ogni caso arriva, sul nostro investimento c'è. E allora oggi partiamo da queste domande: come investiamo quando si risvegliano le turbolenze politiche? Hai visto, no, in Grecia cosa, certo, sta succedendo? Si va alle elezioni presidenziali e tutti temono. Esatto, temono che insomma l'estrema sinistra ritorni un pochino a far parlare di sé. Ci sono le presidenziali anticipate il 17 dicembre e la borsa è crollata. Perché c'è stata questa relazione diretta? Chissà che cosa è successo. Peraltro c'è stato anche un condizionamento diretto anche su tutte le altre borse. Poi se guardiamo dall'altra parte dell'oceano, abbiamo visto che si parla tanto degli Stati Uniti, che probabilmente là l'economia va un po' meglio, allora torneranno a crescere i tassi di interesse. Anche questa è una scelta precisa di politica monetaria, ma anche di politica economica. Come si investe allora in uno scenario di tassi europei che sono bassissimi e tassi americani che a breve riprenderanno a salire? Volevo subito sentire Binismaghi che ne pensa di tutto questo fermento. Chiudiamo l'anno veramente con un bel po' di notizie che non possiamo sottovalutare, direi. Assolutamente, è chiaro che il quadro evolutivo è in continuo fermento e, come è stato ben detto, ci sono situazioni politiche che subiscono delle accelerazioni. Il fatto di voler anticipare l'elezione del Presidente della Repubblica in Grecia chiaramente ha scatenato un movimento sui mercati, in particolare partendo dalla Grecia, molto negativo, ritornando alle preoccupazioni che, certo, avevamo in passato. E infatti abbiamo avuto la sensazione che si tratti di un focolaio che non si è mai spento completamente, quello greco. Purtroppo no, perché la congiuntura non sta recuperando sufficientemente rapidamente, come invece sta avvenendo in altri paesi dell'euro, e la troia ha chiesto chiarezza politica, ecco perché il primo ministro ha anticipato le elezioni del presidente, però chiaramente ha aumentato la paura, perché può darsi che non riescano a trovare un presidente. È pazzesco, una economia piccolissima, che guarda, tu peraltro hai anche visitato spesso, e che hai visto come si muove e condiziona davvero. Basta un po' un tutto. Un granellino di sabbia per mettere, cioè, in crisi un ingranaggio. Ecco, assolutamente. Non potevi dirlo meglio, veramente. Ma vede, mi dia no, un voto. Si era preparata però. Me l'aveva suggerito. La sto tormentando, povera, da un anno e mezzo. Me l'aveva suggerito lui, devo dire. Ah, no, vabbè. Comunque, questa Grecia aveva anche trovato il passo giusto negli ultimi mesi, perché appunto impegnandoci a leggere correttamente le notizie di economia e finanza avevamo capito che i conti pubblici sono, come dire, in miglioramento. È stato lanciato un grande piano di privatizzazioni, faticoso, ma in ogni caso si stava andando avanti. Si stavano anche ridimensionando i rendimenti dei titoli di Stato, che nel giro di due giorni si sono impennati invece di nuovo, e poi, come ci diceva Simone Binismaghi, è ripreso questo braccio di ferro con le istituzioni europee sulle misure di risanamento ancora da attuare. Vi do una cifra per capire un po' la situazione greca: rapporto debito-PIL al 174%, è un valore discretamente alto. Sì, soprattutto che non è sostenibile se non c'è una forte crescita economica e se la disoccupazione non scende. La disoccupazione è troppo elevata, 27%, è un tasso di disoccupazione molto altissimo. Alto, e per di più se pensiamo che il tasso di disoccupazione dei giovani è ancora più alto, questo è un problema molto forte, vuol dire che c'è un forte disagio sociale, esatto. Ecco perché si innescano dei movimenti politici come questo Tsipras, che chiaramente non è proprio tenero nei confronti delle politiche di austerity. Certo. Allora, noi mediamente quando succedono queste cose invitiamo piccoli risparmiatori a stare un po' lontani da queste aree. Sì. Quando i rendimenti dei titoli di Stato sono molto alti, è chiaro che si nasconde dietro a questa percentuale elevata un rischio altrettanto elevato. Eppure c'è chi la tentazione di investire poi in certe economie ce l'ha lo stesso. E credo che Vincenzo da Napoli questa tentazione l'abbia avuta. Vincenzo, sì. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Che seguo sempre. Niente, io ho proprio acquistato dei titoli di Stato con scadenza 26 e 29, step up, quindi con un interesse che dovrebbe poi aumentare già a partire dal febbraio del 2015. Però volevo sapere appunto che rischi concreti ci sono nel caso in cui alle prossime elezioni dovesse insomma vincere questo partito. Grazie Vincenzo, dottor Binismaghi, qua lei deve allora intanto prendere la sua sfera di cristallo e cercare di capire lo scenario possibile che si potrebbe verificare. Ma io credo bisogna fare due considerazioni. Sì. Una prima è il nostro risparmiatore ben conscio, mi auguro che i rischi erano estremamente elevati, esatto. E bisogna capire quanto ha destinato dei propri investimenti, perché questo è uno dei punti sempre più importanti. Quando si va verso investimenti di questo genere bisogna dare una percentuale molto limitata del proprio portafoglio. La seconda considerazione che faccio è chiaro che se il movimento Tsipras dovesse andare al potere, è uno dei suoi punti importanti al programma è una ristrutturazione del debito, mi sembra che siano certo. stati abbastanza espliciti, quindi poi se la porteranno avanti, con che condizioni, in che maniera, non lo sappiamo, però certo. Direi che ci sono due punti fermi, niente più politica di austerity della Troica, punto, ristrutturazione del debito perché è insostenibile il 174%. Certo. Allora adesso a parte quello che farà la Grecia, poi magari spieghiamo che cosa vuol dire ristrutturare il debito certo. Di una nazione, dottor Bini Smaghi, ma lo faremo dopo il giornale radio. Chiedo quindi pazienza anche a Valerio da Firenze che vuole portarci oltre oceano con la sua domanda. Tante cose da fare dopo il giornale radio. Cuore e denari. Eccoci e ritrovati nella seconda parte di Cuore e Denari. Questo è il secondo appuntamento della nostra nuova rubrica Investire Informati, che vi terrà compagnia ogni giovedì per spiegarvi i termini del risparmio, come funzionano i vari prodotti di investimento, cosa fare a seconda di come si muovono i mercati. E dunque riapriamo la nostra scuola di risparmio. Investire Informati. E io torno a dare il buongiorno a Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Oggi abbiamo aperto il giornale, anzi vari giornali, nelle pagine di economia e finanze. Chiaramente stiamo cercando di interpretare i segnali che arrivano dalla Grecia, perché abbiamo visto che sono stati molto forti quelli dati al mercato. Elezioni anticipate, allora borse tutte in discesa. Abbiamo menzionato prima, Binismaghi, la questione di una potenziale ristrutturazione del debito greco. Che cosa vuol dire ristrutturare il debito di uno Stato sovrano? Anche se vorrei ricordare agli ascoltatori tutte le puntate che abbiamo fatto in passato sull'Argentina. Ci dovrebbe venire in mente qualcosa di preoccupante. Beh, molto semplice, vuol dire non mantenere quanto è scritto nello strumento che il risparmiatore ha sottoscritto. Quindi se c'è un'obbligazione a 10 anni con un tasso, il debitore dice noi non manteniamo il pagamento delle cedole, esatto. E avviamo una ristrutturazione. Vuol dire cambiare le condizioni economiche, le scadenze e anche il tasso. E certo, e diciamo che non c'è nessuna possibilità di scelta da parte del risparmiatore finale, le nuove condizioni cambiano certo. O le si accetta, altrimenti diciamo l'investimento piccolo o grande si perde. Esatto. E quindi in sostanza questo un po' tenete sotto osservazione la Grecia, perché anche acquistare adesso un titolo di Stato di questo paese può essere un investimento speculativo che può darci nel breve un po' di soddisfazione, ma in ogni caso i chiari di luna non sono proprio confortanti. E a proposito di focolai, come prima abbiamo definito questo della Grecia, Binismaghi, è lecito chiedersi se ci siano altri focolai pronti a riaccendersi in Europa, perché qualche anno fa una condizione simile a quella greca c'erano anche l'Irlanda, per non parlare della Spagna, il Portogallo, adesso al momento tengo da parte l'Italia. Beh, però direi che la situazione è completamente diversa. L'Irlanda sta andando molto bene, il tasso di crescita dell'economia è molto elevato, molto sostenuto e ha appena avuto un miglioramento del rating del proprio debito, quindi è segno che la comunità finanziaria sta vedendo dei progressi importanti. Quindi loro non contestano le indicazioni che le istituzioni europee danno, come sta facendo la Grecia? No, hanno applicato totalmente il programma. Diciamo che l'Irlanda ha questo grande vantaggio, un'economia molto flessibile, che esporta tantissimo, e questa flessibilità l'ha sfruttata totalmente e quindi è riuscita a riguadagnare competitività molto rapidamente e ha un grande vantaggio nella bilancia commerciale delle partite correnti. Portogallo non ci sono notizie negative. La Spagna invece è un po' in una situazione in cui nel 2015 ci saranno le elezioni politiche e quindi chiaramente più ci si avvicina alla scadenza e più anche lì forse ci sarà un po' di incertezza e chiaramente i mercati inizieranno a apprezzarla, soprattutto perché non sapremo quali saranno i partiti che usciranno vincitori, e anche in Spagna ci sono dei movimenti contrari naturalmente alle politiche di austerity. Certo. Stiamo attenti che in Spagna è un altro paese, direi è il paese insieme alla Grecia che ha il più alto tasso di disoccupazione, in particolare disoccupazione giovanile. E questo naturalmente crea delle spinte politiche. Sono tassi ben superiori al 50%, non dimentichiamoci che noi ce l'abbiamo al 43%, certo, che è un tasso tutt'altro che trascurabile. Binismaghi, allora, dopo aver detto tutto questo, dovendo dare un'indicazione pratica e concreta ai nostri ascoltatori, un fondo di investimento obbligazionario ben diversificato in tutte le economie europee è un tema di investimento che secondo lei in questo momento è da prendere in considerazione o da acquistare alla larga? Ma io credo che convenga costruire un portafoglio obbligazionario più internazionale, quindi cioè diversificato fuori dall'area euro, perché i rendimenti nell'area euro sono molto contenuti, molto compressi. È vero che anche l'inflazione è scesa e quindi i rendimenti reali sono sempre abbastanza interessanti, però io credo che sia bene per qualcuno che vuole avere un portafoglio obbligazionario di creare una diversificazione anche fuori dall'euro. Allora, andiamo negli Stati Uniti, visto che lei ce l'ha messa così su un piatto d'argento. Partiamo. Andiamo da Valerio, che ci chiama da Firenze, e poi subito dopo da Mauro, sempre dalla provincia di Firenze. Qua oggi Napoli e Firenze sono le città che ci seguono di più, evidentemente oggi va così. Valerio, benvenuto. Buongiorno, grazie per questo spazio. Guardi, poi le devo confessare che prima microfoni spenti, un po' sul suo commento che avevo già visto in anteprima, abbiamo anche un po' sorriso, ma poi le spiego perché, naturalmente con grande rispetto. Ci dica, sì, Valerio. Sì, certo. Senta, io qui ho due testi, uno di Paul Krugman che è fuori da questa crisi adesso e l'altro di Luigi Zingales, Manifesto Capitalista. Allora, circa un annetto e qualcosa fa ho comprato uno stock di dollari proprio perché sapevo, insomma, vedevo dove andava la cosa, quindi quantitative easing e crescita dell'economia americana conseguentemente. Naturalmente Luigi Zingales invece parla del ritorno al capitalismo etico e di ritorno a regole certe, eccetera, eccetera. Seguendo il vostro programma e anche altri programmi, eccetera, viene fuori che nel corso di questo periodo sembra si stiano sviluppando delle altre bolle nell'economia americana, tipo le bolle dei prezzi di onore, la bolla dei prestiti per il credito al consumo, la bolla per l'acquisto di autoveicoli, eccetera. Quindi diciamo che vecchi vizi che ritornano un pochino a galla, anche no, vuoi dare grande credito, quindi, Valerio. Quello che veniva fuori da una, diciamo, considerando una tesi, un'antitesi, e traendone fuori una sintesi, è che probabilmente le politiche keynesiane, più forse un ritorno alle regole un po' di stampo smithiano sul libero mercato, quindi regole certe e controlli. Valerio, noi abbiamo capito che lei ne sa. Possiamo andare alla domanda, grazie. Ci si può affidare dei fondi di investimento americani, ci si può affidare delle banche americane? Io ho uno stock di dollari, dove devo investire? Cos'è la cosa migliore? Ecco, questa era la domanda chiara. Valerio, allora la ringrazio. Dovremmo aprire, come dire, una trasmissione interamente dedicata agli Stati Uniti, dove si sta peraltro consumando in termini positivi una rivoluzione industriale incredibile, quella dello shale oil, no? Dottor Binismaghi, per cui in realtà questa economia cresce grazie anche a tutto questo. Abbiamo visto la guerra che si è scatenata sul petrolio a causa di questa novità. Valerio, un grande investitore sul mercato americano, vuole capire in questo momento se, come dire, c'è una prospettiva incoraggiante ancora di crescita, se vale la pena posizionare un po' di suo denaro in bigliettoni verdi. Faccio due considerazioni sempre su questo tema. Con una diversificazione adeguata. Bravissima. Naturalmente diversificazione adeguata, stare molto attenti anche perché chiaramente il dollaro si è già rivalutato non di poco in questi ultimi 3, 4, 5, 6 mesi, altro che sta schiacciando lo yen in primo luogo. Esatto. Secondo, l'ascoltatore ha parlato di bolle qui e là, lei ha appena accennato allo Shell Oil, ecco lì stiamo attenti perché sicuramente nascerà un problema dallo Shell Oil, nel senso che la discesa del prezzo del petrolio, che da 110-112 è andata a circa intorno a 60, voi sapete che negli Stati Uniti si sono sviluppate tantissime iniziative di Shell Oil con il debito, onde per cui tutte le aziende che hanno sviluppato ricerca nello Shell Oil con grandi finanziamenti da parte delle banche, con un piano di rientro naturalmente dei propri ricavi, no, calcolati a $110 il prezzo del petrolio, difficilmente potranno rispettare quei piani. Infatti quindi l'Arabia Saudita ha proprio pilotato tutta questa situazione affinché il prezzo del petrolio venisse schiacciato a quel livello e mettere in difficoltà gli Stati Uniti naturalmente. Beh, chiaramente più che gli Stati Uniti metterà in difficoltà quelle imprese che chiaramente hanno fatto tanta leva, no, per fare operazioni di Shell Oil tutte col debito, e quello sì, ci sarà dei problemi, ci saranno delle ristrutturazioni, le banche molto esposte avranno dei problemi. Quindi il tema è magari per Valerio non fare un investimento esclusivamente concentrato in quel settore là, se proprio gli Stati Uniti gli piacciono, sono il suo chiodo fisso. Esatto, fare anche lì un fondo un po' complessivo, un flessibile, non so, un bilanciato. Fare, dottore, fondi flessibili, fondi comunque azionari ma diversificati, mai concentrare i propri risparmi in un unico tema, un unico elemento, perché il rischio è molto elevato. Certo. Adesso abbiamo il domandone, ma lei delle bolle americane ne vede appunto in settori diversi, così come Valerio ci ha spiegato? No, io la vedo qui come l'ho detto sullo Shell Oil, lì sicuramente ci sarà un grosso problema perché c'è stata molta euforia e quindi ci saranno sicuramente i primi fallimenti delle prime iniziative, in un quadro che chiaramente vede gli Stati Uniti molto vantaggiati perché chiaramente sono tornati a essere un grande produttore di petrolio, però come sempre ci sono le situazioni in cui sicuramente tante aziende nel settore falliranno e quindi ci sarà una conseguenza per chi avrà comprato quel debito di quelle aziende se l'hanno emesso sui mercati, o le banche che hanno finanziato tanto naturalmente queste iniziative. Allora adesso è giunto il momento di fare la domandona al nostro, ai nostri ascoltatori, vediamo se siete stati attenti. Rischia tutto, non se l'aspettava, L'affido a lei, dottor Binismaghi. Vediamo se nella prima parte di Cuore e Denari, di investire informati, i nostri ascoltatori sono stati attenti. Cioè, abbiamo una domanda sulla Grecia? Possiamo farne una su questo? Visto che ne abbiamo parlato, la domanda potrebbe essere: qual è il rapporto del debito sul prodotto interno lordo della Grecia? Ecco, una cifra a tre numeri, una cifra a tre cifre, per cui ho già dato anche questo suggerimento. Non dovrei, bene, dai. Ma se volete un libro o di Cuore o di Denari, naturalmente dovete rispondere. Andiamo adesso a Mauro dalla provincia di Firenze, che dici? Ben volentieri, buongiorno Mauro, benvenuto. Sì, buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. Ci dà un consiglio o ci chiede un aiuto? No, mi chiedo un aiuto a voi, al vostro illustre ospite, in questo senso. Io ho timore, siccome si comincia a leggerlo qua e là più di una volta, che non venga fatto un dono dall'Epifania, nel senso di un consolidamento dei risparmi degli italiani, cioè vorrei che venisse fatto un prelievo forzoso nottetempo, come fu fatto dal dottor Amato quando era presidente del Consiglio negli anni 90, e sui conti correnti, conti di deposito e quant'altro. Mauro, le faccio io una domanda, ma lei ha notato negli ultimi tre anni, guardando l'estratto conto di fine anno dei suoi investimenti, che qualche piccolo intervento c'è già stato? Certo, i posti di bordo, poi le trattenute che sono salite escludendo i buoni del tesoro. Quindi ce l'hanno già fatto, Mauro? Dal 12,5 sono andate a 27. 26. Esatto, e ieri lei ricorderà che abbiamo parlato anche dei fondi pensione, perché un intervento potrebbe essere fatto anche lì. Mauro, la ringrazio. Qual è la vostra sensazione nelle società di gestione del risparmio, Binismaghi, che si potrebbe fare ulteriormente un altro intervento? Perché non è la prima volta che gli ascoltatori ce lo chiedono, e non si sono convinti del fatto che tutti gli interventi fatti da Monti, Letta e Renzi appunto siano sufficienti. Ma io credo che oramai la pressione fiscale sul risparmio, che era sicuramente molto bassa qualche anno dietro, oramai è arrivata a un livello, direi, che non si può più aumentarla. E anche quello che è in discussione, no, sulla manovra, sull'aliquota per i fondi pensione, mi sembra che ci siano qualche ragionamento in corso per vedere di non arrivare al livello che il governo aveva previsto, anche perché appunto credo che non siano più sostenibili con i rendimenti a zero, la tassazione al 26, il risparmiatore a un certo punto, certo, cosa gli rimane? Poi non solo prelievo forzoso, ovviamente ancora molti ascoltatori, anche in questo caso chiaramente leggendo un po' i commenti che certe fronde politiche fanno anche qui in Italia, ce ne sono alcune che auspicano l'uscita dall'euro del nostro paese, appunto si chiedono che cosa potrebbe succedere. Io direi che questo scenario non lo voglio neanche evocare, no, in questo momento, no, esatto, andiamo verso questo Natale un po' tranquilli, ma soprattutto cerchiamo di capire come dobbiamo considerare un po' la gestione del nostro risparmio con questi nuovi chiari di luna che si sono preannunciati sui mercati. 800 24 00 24. Un altro tema interessante, questo era il numero verde, dottor Binismaghi, degli ultimi giorni è stato questa serie di notizie che sono arrivate dalla Cina, che hanno un po' riorganizzato i loro, come dire, divieti per operare appunto in borsa nei confronti degli investitori internazionali. Ho molto banalizzato quello che è successo, però per farlo spiegare per farlo capire ai nostri ascoltatori forse è necessario fare così. Due giorni fa la borsa cinese Shanghai meno 5,5 punti in una giornata, e molti per diversificare il loro risparmio negli ultimi anni hanno puntato su queste economie emergenti che hanno veramente galoppato molto. È giunto il momento di fermarsi, secondo lei? Ma io non credo, l'economia continua a crescere a dei tassi estremamente elevati, interessanti, e quindi per chi ha una buona diversificazione e quindi un equilibrio nel profilo di rischio del portafoglio non perché c'è motivo. No? Come abbiamo detto, la correzione del mercato è venuta perché è aumentato il premio per il rischio, perché le autorità cinesi hanno preso una decisione tecnica di cambiare i sottostanti, voglio dire, per i collaterali sulle operazioni di quindi ripo. Che proprio già solamente a dirla così, figuriamoci. È una operazione molto, molto tecnica, quindi certo, non c'è motivi fondamentali. Poi naturalmente l'incertezza di questo movimento, nessuno se l'aspettava questa decisione, chiaramente la gente ha preferito vendere per cercare di capire, e poi bisogna vedere l'evoluzione. Esatto. Se però è il primo passo di altri passi per un maggiore controllo dei capitali, allora cambiano i discorsi. Se invece è un aspetto tecnico e tale rimane, dovrebbe essere riassorbito. E poi sempre correzione. Un po' per guardare alla Cina, più 7%, il PIL cresce del 7%, no? Cioè, addirittura Banca Centrale Cinese che ha detto, insomma, oltre questa soglia il governo non la facciamo crescere, perché altrimenti chiaramente sarebbe ancora più impetuosa come abbiamo visto negli anni passati, ma lì anche la crescita deve avvenire in maniera ordinata, no? Perché sennò sta avvenendo in maniera un po' disomogenea fra la popolazione. Abbiamo qualche ascoltatore, Nicoletta? Sì, abbiamo Luigi che ci chiama da Bologna, buongiorno. Luigi, benvenuto. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere, grazie per l'opportunità innanzitutto, come vede il vostro esperto l'introduzione in Italia di una seconda moneta destinata solamente al mercato interno, che potrebbe facilitare, diciamo così, la crescita e anche diminuire il debito, in quanto lo Stato avrebbe bisogno di Luigi, mi euro. Spiega perché siete così affascinati da questi scenari? Ah, guardi, in maniera molto semplice, io sono stato per tanti anni in Polonia, nei primi anni quando il muro era ancora in piedi, diciamo così, e lì c'era questo tipo di cose. Parliamo di 30 anni fa. Sì, certo, dove c'era lo slot, ma c'era anche il dollaro, per cui l'economia viaggiava su doppio binario. Allora, grazie Luigi, abbiamo due minuti di tempo e anche qua apriremo uno scenario che non credo che sia auspicabile, no, creare non è questa confusione. Non esiste. Prima cosa, l'esempio che stava raccontando l'ascoltatore non era una modalità governata dalle autorità. Chiaramente, siccome c'era una sfiducia sulla moneta polacca, molti tenevano dollari e facevano pagamenti con i dollari. Ma che vuol dire? Certo. Questo non è perseguibile. Allora, ritorniamo per un attimo in Italia. Abbiamo 2 minuti di tempo, però non abbiamo ricordato quello che è successo venerdì scorso, quando a mercati chiusi venerdì sera, appunto, Standard & Poor's ha tagliato il giudizio che ha sull'Italia, il cosiddetto rating sul debito sovrano, portandolo ad un livello leggermente superiore a quello spazzatura junk. Lunedì sui mercati non si è visto nulla, dopodiché è riesploso il focolaio greco, dottor Binismaghi, e tutte le borse sono scese, con Milano che è scesa molto più delle altre. Perché ci interessa di più quello che accade in Grecia e non ci interessa il giudizio che hanno di noi le agenzie di rating, almeno in questo momento, perché in passato non è stato così? Ma diciamo che sicuramente quello che oggi guida i mercati del debito è la politica monetaria. E siccome siamo alla vigilia di un'azione estremamente importante, perché tutti se la stanno aspettando, no? Della Banca Centrale Europea per il primo trimestre, del quantitative easing, quindi chiaramente questo sostiene il mercato del debito italiano e delle obbligazioni, quindi c'è molta liquidità e quindi c'è ancora interesse andare a ricercare chiaramente rendimenti appetibili. Mentre un altro discorso, no, della Grecia, quelle sono delle incertezze legate proprio alla struttura del debito, perché se la Grecia va in una direzione in cui effettivamente si parla di ristrutturare il debito, è chiaro che inizia per tutti i paesi con molto debito, e sappiamo quali sono, un premio per il rischio, chiaramente, perché la paura si diffonde e quindi dall'estero difficilmente troveremo dei compratori per il nostro debito se la Grecia riapre un tavolo veramente con la troica di ristrutturare il debito. Allora, abbiamo perso l'ascoltatrice che si era candidata, allora magari prendiamone uno tra i messaggi che ci sono arrivati al 349-238-6666. Forse Luigino al 349-238-6666 appunto ha indovinato, ci ha dato la risposta corretta alla domanda: quant'è il rapporto debito PIL della Grecia, dottor Binismaghi? Mi sembra che fosse 174. Esattamente. E bravo, quindi, Luigino. E allora ci scriva Luigino se vuole un libro di cuore o di denari, se li vuole tutti e due noi glieli mandiamo. E se ne scrive uno anche Simone Binismaghi, nel frattempo noi mandiamo anche quello. Benissimo. Grazie per essere stato con noi. Noi con Investire Informati torniamo giovedì prossimo con Cuore Denari. Torniamo domani alle 11, vi aspettiamo. Ottimo. Carmelo Lauricella vi aspetta, naturalmente insieme a noi, con Laura Manossi, con Marco Lombardo, insomma, voilà, siamo tutti qua. E ci saremo pure noi. Buona giornata. Cuore e Denari.